vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 15 ottobre, il sole in regione è sorto alle 7.24 e tramonterà alle 18.22. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monelle e Armando Mucchino. I titoli. Le iniziative del Comune di Campo Formido per lo studio, conservazione e valorizzazione del suo territorio e patrimonio naturale. La storia di Angelo Floramo, la grande fame della gente dei campi che trovava un po' di conforto nel pranzo della domenica. I prezzi di frutta e verdura continuano a salire, gli unici che non se ne accorgono sono però gli agricoltori. C'è una correlazione tra la quantità di vino contenuto in una bottiglia e la sua qualità? Sembra proprio di sì. Sterilizzazione e pastorizzazione, tecniche diverse di conservazione dei cibi da attuare con le opportune avvertenze. La Veronica, alias Ebe, pianta semplice da coltivare, poche cure la renderanno rigogliosa. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsione del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. C'è un comune in Friuli, quello di Campoformido, che da anni analizza e riscopre le sue risorse ambientali, agricole e soprattutto identitarie nello studio del suo territorio che ha alcune particolarità. Ne parliamo oggi con il vice sindaco di Campoformido, Cristian Romanini. Partiamo soprattutto da quello che è un vostro fiore all'occhiello, i prati stabili. Possiamo tranquillamente affermare che Campoformido è la capitale dei prati stabili in regione perché gode di una superficie fra le più ampie, forse la più ampia, di tutto il territorio regionale. In questo contesto quindi abbiamo pensato alle modalità per una valorizzazione di quello che viene visto spesso come un vincolo all'agricoltura, in quanto voi sapete meglio di me che il prato stabile, per essere definito tale e censito dalla regione, viene trattato, lavorato due volte l'anno con due sfalci, uno a inizio estate e uno verso fine settembre. Qualcuno dice che i nostri prati stabili sono a rischio, è vero? Assolutamente, come tutti gli habitat che vivono un equilibrio precario. La particolarità di questa parte di natura è legata a due aspetti. Un'eccessiva presenza antropica rischia di minare il patrimonio di biodiversità. L'abbandono rischia di far perdere il prato, perché sappiamo benissimo che se non viene sfalciato la vegetazione lo colonizza e si perde la ricchezza del prato stabile. Strettamente legato ai prati stabili anche il mondo delle api con una vostra iniziativa. Sì, abbiamo fatto partire il progetto Comune Amico delle Api proprio perché avevamo bisogno di un testimonial di biodiversità universalmente riconosciuto per promuovere il progetto di valorizzazione del prato stabile, e fra questi i pronubi selvatici svolgono un ruolo chiave, ma l'ape domestica è quella forse più comune da conoscere e da promuovere. E tutto questo vostro lavoro ha un luogo fisico dove si può vedere, appunto, analizzare e riscoprire. Esatto, tutte le attività di promozione che abbiamo fatto anche coinvolgendo le scuole avevano bisogno di un luogo fisico dove poter parlare e accogliere i visitatori per una uscita poi consapevole sul Parco del Cormor. E questo luogo è il Mulin di Basaldiella, il mulino di Basaldella del 1400, che è proprio diventato il centro visite del Parco del Cormor e quindi anche dell'intero territorio comunale. Parlare di mulini vuol dire anche parlare della storia dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia. Sì, per secoli il mulino ha rappresentato, come la latteria Turnaria, come altri luoghi del paese, un punto di riferimento. Il nostro ha lavorato fino al 1982-83, poi per anni è rimasto chiuso e anche dopo il restauro l'attività era molto ridotta a livello pubblico. Con il nostro progetto di centro visite abbiamo voluto restituire alla comunità di Basaldella, ma di tutto il comune e la regione, un luogo fisico dove non più macinare granaglie, ma macinare idee. E come compagno di viaggio avete niente po' di meno che l'Università di Udine. Uno dei partner istituzionali di cui siamo orgogliosi, appunto, l'Università degli Studi di Udine, che ci ha accompagnato nella convenzione Progetto Comune Amico delle Api, ma c'è il Consorzio degli Apicoltori della provincia di Udine, c'è il Museo Friulano di Storia Naturale del Comune di Udine, c'è la Regione, Promoturismo, l'Istituto Comprensivo, il mondo delle scuole, che ci stanno accompagnando in questo percorso, in questa scommessa che vogliamo vincere. Thank you. La dignità e la fame della gente dei campi in questa storia di Angelo Floramo, che si sofferma su uno dei momenti fondamentali del tempo contadino, il pranzo della domenica. La civiltà contadina che caratterizzò per secoli la cultura delle nostre terre è sempre stata povera di tutto tranne che di quella atavica dignità che ne ha sempre ingentilito il profilo, anche grazie a una sensibilità tramandata dai padri e dalle madri ai loro figli. E questo spesso avveniva anche attraverso i parametri di una severa disciplina, generosamente delegata a chiunque fosse chiamato a svolgere un ruolo educativo, al di là della funzione parentale. Uno scappellotto, il famigerato papin in lingua friulana, poteva sempre arrivare da chiunque, fosse una zia, un nonno o una vicina di casa. Il rigore con il quale si veniva cresciuti, oggi insostenibile e per fortuna lontano dalle grammatiche della pedagogia moderna, aiutava però a farsi la crosta per affrontare un tempo mortale attraversato da stenti per noi inimmaginabili, tra i quali la fame era senz'altro il più difficile da sostenere, soprattutto per i bambini. Una condizione che ancora oggi, malgrado la nostra indifferenza, avvilisce i 2/3 dell'umanità, anche quella che transita silenziosa e raminga oltre le siepi dei nostri giardini. Nelle narrazioni dei vecchi, nati e cresciuti nelle famiglie di coloni che non possedevano proprio nulla, se non la fatica con cui tirare avanti dalla mattina alla sera, vengono spesso evocati i morsi che dilaniano uno stomaco vuoto, mentre ci si addormentava non sapendo se l'indomani ci sarebbe stato qualcosa da mettere in tavola. Eppure, il pranzo della domenica ha sempre rappresentato, perfino nei periodi più difficili, un'occasione per rendere santa la festa. A scampo di equivoci e fraintendimenti, non si pensi alle mense fiorite cui sono abituati i nostri tempi, tanto sovrabbondanti di tutto da permettersi lo scempio dello spreco. Quando Davide Maria Turoldo, il prete, poeta e contadino che nacque a Coderno, ricordava la sua poverissima infanzia, si chiedeva come avessero fatto lui e i suoi fratelli a crescere così alti e robusti tutti se in tavola non c'era altro che polenta. E si dava una risposta. Era sua madre che la cucinava, mettendoci dentro il cuore. Ecco, questa deve essere stata la spezia più golosa su quelle tavole disadorne, assieme a qualche terrina di radicchio o una pentola di cavolo bollito. Quando a fine pasto, la portata principale era in genere un minestrone condito con le ossa del maiale, se andava bene, gli uomini si concedevano il lusso di masticare o di fumarsi un po' di tabacco e, perché no, anche un sorso di grappa. E le donne pure. Anche il settore dell'ortofrutta non è rimasto indenne dal rialzo dei prezzi di questi ultimi mesi. Rialzi giustificati o no? Ce ne parla il professor Raffaele Testolin. Frutta e verdura alle stelle è il leitmotiv di quest'estate. Che frutta e verdura siano aumentati e di molto negli ultimi mesi non ci sono dubbi. Le cause sono molte e alcune contingenti legate ad eventi atmosferici che hanno fatto mancare molto prodotto sui banchi del supermercato. Certamente le zucchine da 2 euro quelle grandi a 7 euro quelle piccole con il fiore, melanzane, peperoni e cetrioli a 3 euro sono a prezzi elevati. Per non parlare della frutta di stagione, ciliegie e albicocche sono state per molti un prodotto quasi irraggiungibile quest'anno. Ma io lavoro in agricoltura e voglio spezzare una lancia a favore di chi coltiva. Il prezzo pagato all'orticoltore che alle 4 di mattina tutti i giorni va a consegnare il prodotto al mercato è la metà del prezzo pagato dal consumatore al supermercato e l'orticoltore non ha alcun potere contrattuale. Il prezzo lo fa la grande distribuzione. La frutta come mele, pesche, uva, agrumi sono pagate abbondantemente sotto l'euro al produttore. I prezzi sul banco del supermercato sono quelli che vedete. Frutta e verdura, una volta superato il momento contingente, potranno tornare a prezzi più ragionevoli e allora voglio affrontare il discorso più generale di quanto spende una famiglia per la spesa alimentare a costo di inimicarmi qualche lettore. Tra i single da una parte e le famiglie con 2 figli ci stanno gran parte delle famiglie italiane che, in base alle statistiche, sono composte mediamente da 2,4 unità. Sapete quanto investe una famiglia italiana che dispone di un reddito medio mensile di 2.843 euro per la spesa alimentare? 473 euro al mese. I dati sono di giugno 2023. Il resto va in altro: vestiti, scuola, sanità, telefonini, trasporti, eccetera, eccetera. Ora, siamo sempre più attenti all'alimentazione, cerchiamo il prodotto biologico, ci informiamo sul valore salutistico dei prodotti, frequentiamo gli agriturismi alla ricerca di prodotti genuini, acquistiamo a chilometro zero, abbiamo recuperato, se posso dire, una cultura dell'alimentazione. Vogliamo riconoscere un reddito ragionevole al mondo agricolo che si prende cura della nostra alimentazione? Io voglio sperare di sì e spero che non pretendiamo per pasta, pane, latte e uova prezzi più bassi di quanto paghiamo ora. Una famiglia, e chiudo, spende il 17% delle proprie entrate per la spesa alimentare. Se salissimo al 20%, rinunciando a qualcosa di superfluo, non sarebbe la fine del mondo e avremmo dimostrato un grande rispetto per il mondo che opera nel settore primario, cioè l'agroalimentare, che in molta letteratura è ingiustamente considerato il mondo degli ultimi. C'è un legame tra la grandezza, il contenuto, la capacità di una bottiglia e la qualità del vino che contiene? Ce ne parla Vladimiro Tullisso per la rubrica dei sommelier. Tra le informazioni che troviamo sulle carte dei vini c'è anche il volume del liquido delle bottiglie. Generalmente i contenitori di vetro hanno una capacità di 750 millilitri, insomma 3/4 di litro. Questa dimensione deriva dalla comparazione con il gallone, unità di misura inglese. Le casse che per secoli hanno trasferito il vino dalla Francia al Regno Unito erano dimensionate per contenere 2 galloni di vino, contenuti in 12 bottiglie da 0,75 litri a testa. Da qui la dimensione che è diventata quella standard. Essa non è la sola che possiamo incontrare, perché i vini vengono messi ad affinare anche in contenitori di vetro più capienti, che vanno dal 1,5 litri della Magnum ai 15 litri della Nabucodonosor, una dimensione di non facile gestione per chi deve servire il vino. Per fortuna bottiglie di tale capienza sono molto rare, anche per i significativi costi di produzione del vetro, e il più delle volte, quando si incontrano, sono vuote o piene d'acqua a solo beneficio della scenografia. Ma c'è un legame tra dimensione della bottiglia e qualità del vino contenuto? Durante il periodo di affinamento, ovvero l'arco di tempo che inizia con l'imbottigliamento e si chiude con la stappatura, il volume del contenitore effettivamente comporta delle conseguenze. Dobbiamo ricordare che il rapporto tra vino e ossigeno è all'origine di fenomeni che modificano le caratteristiche organolettiche del vino, con una lenta ma costante degradazione delle sue componenti protettive. Nelle bottiglie di maggior formato, facciamo riferimento alla Magnum, quella più abituale, l'ossigeno che arriva al liquido attraverso il tappo di sughero trova ad accoglierlo almeno il doppio di liquido e quindi il suo effetto viene limitato. Possiamo pertanto affermare che a parità di qualità iniziale un vino che affina in una bottiglia Magnum ha una maggiore prospettiva di longevità di quello messo a riposare in una bottiglia standard e beneficia anche di una migliore capacità di proteggersi da altri rischi, come ad esempio gli sbalzi di temperatura. Ecco perché gli appassionati di vino preferiscono le Magnum, che conservano nel vino maggiore freschezza, finezza e complessità di aromi rispetto alla bottiglia classica. Sterilizzazione e pastorizzazione, due tecniche di base per la conservazione degli alimenti che richiedono una serie di accorgimenti, come ci spiega Michele Urbano. Aprendo un buon vasetto, troviamo al suo interno non solo un alimento scelto, selezionato e amorevolmente trasformato, capace di evocare ricordi e sapori familiari consolidati, ma anche l'abilità di garantire la conservazione di esso nel tempo. Per fare questo, bisogna avere ben presente le metodiche tecnico-scientifiche dell'intera filiera produttiva. Iniziamo dunque dando il giusto significato a due termini che troppo spesso vengono utilizzati erroneamente. Per sterilizzazione si intende il processo di stabilizzazione degli alimenti che permette di bloccare completamente l'attività dei microorganismi e degli enzimi. Attenzione però, le temperature elevate che permettono tale processo non sono fattibili in ambito domestico. A livello di conservazione casalinga, dunque, il termine corretto da utilizzare è pastorizzazione, ossia un trattamento termico che si effettua a temperatura minore o uguale dell'acqua in ebollizione. Questo procedimento permette di eliminare la maggior parte dei microorganismi e enzimi, ma non le spore. Per questo motivo è preferibile consumare le semiconserve entro un anno dalla data di preparazione. È sottointeso che dobbiamo prestare un particolare riguardo all'igiene delle mani e della cucina. Spugne e canovacci sono un potenziale pericolo per la proliferazione di microorganismi dannosi. Assicuriamoci dunque di lavorare in un ambiente pulito in ogni suo dettaglio. Non utilizzare capsule che presentano piccole deformazioni, tracce di ruggine o ammaccature. Assicuratevi che le guarnizioni in gomma siano belle elastiche, non rigide o secche. Tutti i contenitori, i tappi e le guarnizioni devono essere sanificati, ossia ben puliti prima dell'utilizzo. Prestate particolare attenzione all'asciugatura. Vanno fatti scolare e passati accuratamente con un canovaccio pulito che non lasci residui tessili. Una volta riempiti, i nostri vasetti vanno dunque pastorizzati. Immergeteli in acqua e portate a ebollizione. Dal punto di ebollizione calcolate 20 minuti circa per vasetti da 250 grammi. Quando i contenitori saranno ben freddi, ispezionateli, assicurandovi che i tappi abbiano provveduto al sottovuoto. Vi lascio nel contributo scritto le informazioni dettagliate per ogni singolo passaggio. In questo nostro appuntamento mi premeva sottolineare l'importanza della corretta terminologia, soprattutto in un contesto di sicurezza alimentare. Per questo motivo oggi vi ho parlato esclusivamente del metodo di conservazione più sicuro in ambito domestico. Per onestà vi dico che non pastorizzo quasi mai le confetture e le marmellate. La motivazione ve la darò in un prossimo contributo. Argomenterò anche con altri ed eventuali metodi di pastorizzazione presi dal web, alcuni molto fantasiosi, lasciando poi a voi la facoltà di scelta. Il suo nome è Ebe, ma tutti la conosciamo come Veronica, pianta sempreverde del valore aggiunto per case e giardini, come ci dice Alessandro Squizzato. L'Ebe, chiamata più comunemente Veronica, è un genere botanico di arbusti sempreverdi, originari dell'Australia e America del Sud. Si caratterizzano per il fogliame lucente e le spighe fiorite, di vari colori, viola, rosa o bianco. Le foglie possono essere considerate ornamentali, viste le loro particolari screziature, spesso tinte di rosa o variegate. Le veroniche si suddividono in molteplici cultivar, da quelle più compatte, adatte alla vita in vaso, a quelle più grandi, ideali ad esempio per comporre una bordura. Sono molto semplici da coltivare e poche cure mirate saranno sufficienti per garantire loro uno sviluppo sano e rigoglioso. Preferiscono luoghi soleggiati, anche se le cultivar da vaso andrebbero preferibilmente allontanate dalla luce diretta durante le ore più calde della giornata. In estate vi consiglio di porre la veronica in un luogo luminoso, ma lontano dai raggi solari, che ustionerebbero le foglie. Nel periodo invernale, se il clima è mite, l'erba continuerà a vegetare. Se invece l'inverno si dimostrerà particolarmente rigido, la pianta si seccherà completamente. Non sottovalutate mai le basse temperature invernali e riparate le piante se la temperatura esterna scende sotto lo zero per molte ore. Il terreno, inoltre, deve essere ricco di nutrienti, leggero, ben drenante, ma non troppo asciutto. Se vengono coltivate in vaso, rinvasiamole con del terriccio universale di buona qualità o del terriccio per piante da fiore. Non lasciamo mai che il terriccio si asciughi del tutto. Ricordiamoci, inoltre, di concimare regolarmente la nostra veronica, vista la sua preferenza per i terreni ricchi di sostanze nutritive. A cadenze regolari di 10 giorni circa, sarebbe ideale fornire concime specifico per piante da fiore. Una volta all'anno, integriamo nel terreno una manciata scarsa, ma ben distribuita, di stallattico. Sono molto attrattive per le farfalle e le api. Voi ammirerete i fiori e queste simpatiche bestioline si ciberanno del polline prima del riposo invernale. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni di cereali agricoli della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,80, 20 e 10 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 21,70 e 22,20, l'orzo peso specifico 62,65 tra 17,70 e 18,20 e la soia tra 39,50 e 40 euro il quintale. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 11 euro e 90 centesimi il quintale e la soia di 20,20. Fiacche e non brillanti le contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi diversificati. L'insalata gentile viene quotata da 1 a 1,30 euro il chilo IVA esclusa, la lattuga Trocadero da 1,30 a 1,50, i finocchi da 1,40 a 1,60, i cavoli da 1,80 a 2 euro, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso tra 2 e 2,50, le patate tra 0,75 e 0,85, le castagne da 4 a 5,50 euro il chilo. Nel comparto caseario, la commissione camerale di Pordenone e Udine ha determinato il prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotandolo ancora in ribasso tra 49 e 51 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, prezzi riflessivi nel comparto di foraggi, con un lieve calo per l'abbondanza di prodotto e l'erba medica viene quotata fra 16,50 e 17,50 euro il quintale, IVA esclusa. Il fieno mazzengo di pianura si paga tra 11 e 12 euro e la paglia di cereali pressata si quota fra 8 e 10 euro il quintale. E con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. La prima metà di ottobre è stata eccezionalmente calda in regione e non ha eguali almeno da 30 anni. Su pianure e costa la temperatura media è stata 3 gradi oltre la norma. Ad alta quota, intorno ai 2000 metri, lo scarto è addirittura di 6 gradi. È però la temperatura del mare che batte tutti i record di metà ottobre con un valore di oltre 23 gradi, invece dei 19 normali e comunque superiore di ben 2 gradi al precedente record che per la seconda decade di ottobre appartiene in parte al 1942, al 1966 e al 2014. Il dato di questi ultimi giorni di oltre 23 gradi ha una valenza storica estremamente significativa, poiché non ha precedenti per Trieste. Questa prima parte d'autunno, estremamente mite, si conclude proprio in queste ore, per l'arrivo di un fronte freddo dal nord Europa che fa scendere sensibilmente le temperature. Domani e dopodomani il tempo sarà stabile, con cielo poco nuvoloso o variabile e temperature che rientreranno quindi nei valori normali del periodo. La bora continuerà a soffiare sulla costa fino a martedì mattina e manterrà l'aria, oltre che fresca, anche secca. Da metà settimana depressioni atlantiche dovrebbero interessare l'Italia portando di nuovo aria umida. Sarà però dopo il 20 che sul Mediterraneo si formerà una vasta depressione che porterà le classiche piogge autunnali, estese e persistenti sul nord Italia e sulle Alpi. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. A San Luca si beffi il vinte suce, ovvero il giorno di San Luca, il 18 ottobre, si beve il vino, che dovrebbe essere già bevibile, nella zucca, che è già matura, quella vinaria, ad esempio, o la lagenaria siceraria, usata in antico anche come bottiglie. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monella, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.